piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Dal 18 maggio via libera al commercio al dettaglio, con regole precise. Ha già fatto molto discutere l'indicazione della distanza consentita tra i clienti all'interno di bar e ristoranti. Per ognuno deve essere garantito uno spazio di almeno 4 metri quadri. I clienti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina se si alzeranno per andare alla toilette o a pagare. A ogni tavolo sarà necessaria la presenza di gel disinfettante. Al contrario, niente menù, possibile veicolo di contagio. Diciamo che da questa mattina stiamo ragionando con vari ospiti a Radio 24 su quello che è il problema della ristorazione. Avete sentito chef, titolari di ristoranti, persone del settore che hanno manifestato quelle che sono le loro oggettive difficoltà per il fatto che le norme che sono state già anticipate, ventilate attraverso indiscrezioni, saranno comunque molto restrittive della nostra socialità al ristorante. Si parla un distanziamento indispensabile di almeno 2 metri, si parla di un settore di 4 metri quadri per ogni avventore, si parla della divisorio in plexiglass fra persone che saranno sedute a tavola assieme, banditi i buffet, bandito il pagamento in contanti, il menù non sarà consultabile attraverso quella lussuosa e civettuola lista che ci metteva in mano il cameriere, ma ci sarà una lavagnetta come accadeva nei pub e nelle hamburgerie. Tutto il personale dovrà essere rigidamente sottoposto alle norme di sicurezza, distanziamento, mascherine, sanificazione e via dicendo. Noi siamo molto vicini alle persone che come attività professionale si sono occupate e si occuperanno della ristorazione, capiamo i loro problemi e vogliamo in qualche maniera questa mattina, attraverso uno strumento consueto di questa trasmissione in epoca pre-Covid, dare qualche suggerimento come avventori. Ora, noi ci dobbiamo rendere conto che da qui a qualche giorno probabilmente cambierà leggermente la nostra vita circoscritta e reclusa e noi potremo cominciare magari ad andare al ristorante. Andare al ristorante naturalmente non significa andare in un posto dove cerchiamo qualcuno che ci sfami, figuriamoci, non è questo il problema. Andare al ristorante nelle nostre ritualità sociali corrispondeva a un ben preciso sistema di interfaccia emotiva con i nostri simili. Si va al ristorante invitando una persona perché la si vuole conoscere meglio, si vuole iniziare una storia d'amore, ti invito a cena, è il classico passaggio marpionico provolonesco, ma al ristorante si va anche fra amiche, fra amici, per dare senso a una serata, per festeggiare qualcosa, per una ricorrenza, per un evento, si va con le famiglie al ristorante, insomma si va per parlare di lavoro, per parlare di cose futili. Ora, tutto questo naturalmente sarà fortemente condizionato. Noi potremo sicuramente riprendere a mangiare le leccornie che ci propinano gli chef, i ristoratori, le specialità del posto, ma dovremo rinunciare alla nostra parte sociale. Quindi il ristorante avrà la sua funzione primaria, quella di fornire cibo a persone che richiedono cibo particolare o per necessità o per diletto o per passatempo, ma la componente importantissima dell'andare al ristorante, che è la componente sociale, sarà fortemente compromessa. Immaginate andare invitare a cena una persona, poi stare a 2 metri di distanza, avere plexiglass in mezzo, avere i camerieri a distanza, non c'è più un rapporto, come si fa a parlare? Vi parlate per gesti, ci si telefona, si usa Zoom, sono tutti problemi che in realtà vorremmo mettere sul tavolo. Noi abbiamo fatto una sorta di bozza di proposta che potrebbe in qualche maniera soddisfare anche quelle che sono le esigenze sociali. Finora si è parlato soltanto delle esigenze di messa in sicurezza del locale e di possibile riapertura al minimo delle possibilità. Naturalmente i ristoranti saranno penalizzati, ma non abbiamo parlato di quelle che sono le nostre esigenze sociali. Oggi vediamo come possiamo articolare, fare di necessità virtù, quella che sono le norme restrittive con la nostra esigenza comunque di vederci con le persone a pranzo e cena anche per il piacere di stare assieme. Sta destando grandi discussioni l'anticipazione sulle nuove norme per regolamentare la riapertura al pubblico dei ristoranti dopo la fase di lockdown per il coronavirus. Il principio base è che andrebbe garantito in ogni locale uno spazio non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente, a meno che non si ricorra a barriere divisorie. Visto che la convivialità è uno degli aspetti più importanti della nostra vita sociale, oggi anche noi, in quanto possibili clienti e avventori, vogliamo dare il nostro contributo e proporre alcune possibili soluzioni per garantire sicurezza e fruibilità dei ristoranti. 1. Scaglionare gli ingressi al ristorante in base alle fasce orarie, con offerte speciali low cost per gli orari meno felici. Ad esempio, offerta speciale cena ore 18:30 con sconto del 30%, cena ore 20 prezzo pieno, cena nella fascia prime time dalle 21 alle 23 con maggiorazione del 20%. 2. Apparecchiare i tavoli con tovaglie lunghe fino al pavimento per promuovere l'innocuo avvicinamento sociale tra avventori tramite piedino. 3. Dedicare l'utilizzo dei 4 metri quadrati di spazio a disposizione di ogni cliente per i suoi animali domestici, cani, gatti e quant'altro. 4. Per i tavoli non occupati, utilizzare barriere in plexiglass di 2 metri per esibizioni e spettacoli di intrattenimento, dai clown per i bambini alle ballerine di lap dance per gli adulti. 5. Mettere a disposizione dei commensali di cene di gruppo e tavolate dei sistemi igienizzati di cuffie e radiomicrofoni per agevolare la comunicazione a distanza. Ora vogliamo il vostro parere. Chiamate all'800240024 e diteci quali limitazioni e condizioni siete disposti ad accettare per continuare a vivere la vostra convivialità nei ristoranti dopo la fase 2. 800240024, questo è una nostra bozza di proposta per permettere anche una vita sociale agli avventori dei ristoranti. Non è soltanto un problema di gestione, un problema economico, un problema di sicurezza, è anche un problema di recuperare anche quella parte di piacere e di socialità. Ringrazio innanzitutto in regia da Milano Filippo Aureggi, in assistenza Anita Panizza, da Roma Alessandro Chiappini e naturalmente da casa sua Fabrizio Intonti. Noi abbiamo dato un primo esempio su come potrebbe essere organizzato il ristorante per supplire in quel vacuum di socialità che naturalmente avremo, apparecchiare con tovaglie lunghe fino al pavimento, così non ci si potrà toccare, non ci si potrà dare la mano, non ci si potrà annusare, non si potrà fare cincin, ma almeno il piedino sarà discretamente permesso. Dare in questi 4 metri di spazio una ragione, uno spazio vuoto, uno spazio che non riempie niente nessuno, magari che ha cani e gatti se li può portare, così avrà i suoi simpatici amici a quattro zampe per fargli compagnia. Mettere a disposizione delle grandi tavolate, le cene fra amici, fra amiche che devono chiacchierare, ma sai quella con chi si è messa, oppure quello con chi sta, quei due cosa fanno e via dicendo, dare delle piccole cuffie con radiomicrofono come quelle che danno ai musei per fare le visite guidate, poter parlare tranquillamente, uno può parlare, guardare nel piatto e conversare piacevolmente con gli amici, una sorta di audio zoom a disposizione degli avventori. Poi vedete voi se avete altre proposte. 800240024, Michele da Padova. Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, diciamo che l'essenza proprio di andare al ristorante è proprio la convivialità, e cioè il poter condividere una cena assieme tra amici. Il che anche perché sennò uno mangia a casa, sta anche più tranquillo, chiaro. Esattamente, il che presuppone che io conosca questi amici e li abbia visti anche prima, cioè lo capisce anche un bambino di prima asilo. Scusi Michele, uno può anche invitare una persona, questa sera andiamo a cena, ti voglio conoscere, è uno sconosciuto o una sconosciuta? Per carità, però partiamo dal presupposto che ci sia questa sicurezza, no, in primis. Benissimo. Se vado al ristorante con 4 persone, mica dovrò vedere una barriera in plexiglass con quelli che sono partito in macchina assieme, per dire, no? E sono arrivato al ristorante. E dopo che roba è sta mascherina a tutti i costi sempre e con i guanti no, sempre. Chi mangia no, penso, chi mangia non può mettere, certo, la mascherina e mangiare. Certo, però si deve mettere la mascherina quando si va in bagno, va bene, allora posso capire solo quello, però poi il fatto di andare in un ristorante e di avere pensi in particolare, paura... quelli che non si puliscono bene la bocca, con la mascherina tutta sporca di ragù, di sugo, che chiazzata, orrenda probabilmente. per dire, non puoi trasformare un posto di piacere in una prigione, perché altrimenti mangio a casa. Aprire in queste condizioni, come ha messo qualche sedicente esperto dell'INAIL, significa chiudere. Lo capisce anche un bambino di prima asilo, che caramba è. Io però aspetti, Michele, non voglio sovrappormi a quelli che sono gli interessi di chi gestisce i ristoranti, mi rendo conto di una situazione la loro disperata, e quindi qualcosa devo comunque in qualche maniera dare un segnale di rinizio. Quindi separiamo i due problemi. In questo momento non ci poniamo il problema, non consideriamo soltanto il problema di chi deve riaprire un ristorante, comunque deve riaprire l'attività, se no scompare anche dall'immaginario delle persone e si sta arrovellando di come farlo. Noi abbiamo dato alcune proposte, ad esempio la proposta dei turni del prime time al ristorante. Allora, il prime time è dalle 21 alle 22:30, è l'orario più figo in cui tutti vogliono andare a cena. Lo mettiamo un 20% in più, ad esempio. Poi c'è quello di quelli che vogliono spendere un po' meno e si adattano, dalle 6:30, 18:30 possono andare a cena. Oddio, non è proprio il massimo dire andiamo a cena alle 6:30, però costa il 30% in meno. Poi la fascia intermedia, quella a prezzo normale, il prezzo che normalmente avrebbe il ristoratore, questo permetterebbe di avere i ristoranti più vuoti, di avere una possibilità di prevedere anche l'afflusso dei clienti, e in qualche maniera supplire anche a quella forma di socialità. Io ti invito al ristorante alle 21:30, è come regalarti un'orchidea piuttosto che un mazzo di gerani. Io vado alle 6:30, magari uno studente deve arrangiarsi, alle 6:30 va a cena, va lì, gli danno il mente fuori, ancora giorno, magari la gente ancora deve digerire il tramezzino pomeridiano. Sentiamo Giorgio, provincia di Savona, 800 24 00 24. Servono proposte concrete. Cosa propone? Giorgio Savone. Senta, io proporrei una cosa semplicissima: stoviglie monouso, usa e getta, sempre e comunque. Vabbè, quello è uno scrupolo per il ristoratore dal punto di vista della socialità che vi cambia. Voi sapete, le posate di metallo, certo le posate di plastica sono tristanzuole, però che devo dire, forse è il minore dei problemi quello. Oltre le stoviglie monouso, proprio dare possibilità sociali, comunicazione sociale, cosa proporrebbe lei? Lei andrebbe al ristorante comunque a queste condizioni, cioè un quadrilatero di 4 metri quadri, 2 metri da uno dall'altro, plexiglass in mezzo, mascherina ogni volta che si va in bagno, poi immagino anche quelli che vanno a fumare, tornano con la mascherina con l'alone giallo di nicotina, è anche brutto, quello che ho detto, che non usano bene il tovagliolo con l'alone di sugo, una cosa un po' brutta, diciamo, mangi lo stesso, mangi bene, però il piacere di andare al ristorante è limitato, come recuperare questo piacere? Ad esempio, cosa ne dite della nostra idea di organizzare, visto che ci sono i separé fra i tavoli, fateli alti, grossi, opachi, e fate che sia un separé a tutti gli effetti, e dentro organizzate uno spettacolino, non so, il pagliaccio per i bambini, la lap dance per i più grandini, i ballerini che gli infilano i soldi dentro il perizoma per le signore, insomma inventatevi qualcosa. Tommy, provincia di Rovigo. Sì, buongiorno. L'ascolto, Tommy. Sì, grazie. Volevo dire, noi abbiamo capito che sto virus c'è e non c'è, perché ne hanno detto di ogni... Stiamo parlando del ristorante, adesso non sono un virologo, non so dare risposte. Nel ristorante basta che mettono il sai, il termometro, quello che ti misura la febbre, che ormai ce l'hanno quasi tutti. Se una persona sta male o ha problemi non entra, basta, ma non serve. Ma non basta vedere la temperatura per avere la certezza matematica, bisognerebbe fare un tampone a ogni persona che entra, mi sembra un po' complicato e un po' lungo, comunque penso che sia anche previsto, diciamo, avere delle cautele di questo tipo, però sa, pensi la fila davanti al ristorante con la gente deve essere tamponata in qualche maniera, deve fare un test sierologico, non so, adesso non voglio entrare in queste specifiche, fare anch'io l'esperto virologo da Wikipedia, però la vedo un po' complicata. Loro mettono delle misure di distanziamento e di sanificazione che almeno le persone stanno distanti, se anche uno in qualche maniera fosse un asintomatico non contamina gli altri, in qualche maniera devono mettersi a in sicurezza. Laura da Milano. Sì, Laura, Nicoletti, sì. Salve, non sempre io sono d'accordo con lei, però in questo caso devo dirle che insomma, qualche espressione anche diversa lei potrebbe un attimino darla, perché stiamo vivendo veramente come in galera. Allora, ho capito, ma con chi se la prende? Faccia capire, con chi se la prende? Stiamo in galera? No, mi faccia parlare, non mi interrompa, sì, sì. Nicoletti, perché lei ha un po' l'abitudine di interrompere. È il mio mestiere interrompere, sì. Lo so, però allora non faccia così. Si chiamerebbe telefono aperto, linea aperta, palco, ognuno dice qualche modo. Sul palco eserciti un altro tipo di... Ecco, allora, io credo che l'aspetto di andare al ristorante sia un aspetto di piacere e anche di seduzione. Togliete questo, i ristoranti chiudono, ma non solo chiudono i ristoranti, chiude tutta una serie di altre possibilità di sviluppare, no, un'economia, di sviluppare veramente una... È finita un po' la socialità, no? Perché tutte queste... questo l'abbiamo detto all'inizio. Il suo contributo, ecco. Però Laura, io la interrompo per portarla a stringere, a dire cosa deve aggiungere a quello che abbiamo già detto. Questa è la valutazione generale. La socialità è compromessa, non si va nemmeno al cinema, nemmeno a ballare, non si fanno tante cose. Ma come può recuperare dei brandelli possibili di socialità andando al ristorante? Attraverso quali escamotage? Visto ci dobbiamo arrangiare. Lo scorso, l'ultimo intervento, provare la febbre, come quando si va nei locali pubblici che hanno questo termometro elettronico, provano la febbre. Va bene, Laura, abbiamo capito, l'ha detto già l'ascoltatore prima. Vedi, io la interrompo perché devo portare le persone al succo di portare un contributo. Questa è una trasmissione fatta con il pubblico. Se il pubblico porta un contributo reale, concreto, che permette di quintessenziare in maniera più elaborata un pensiero che ho soltanto abbozzato, bene, se dire sempre le stesse cose perdiamo solo tempo. Ci fermiamo un istante. Melog. Visto che la convivialità è uno degli aspetti più importanti della nostra vita sociale, oggi anche noi, in quanto possibili clienti e avventori, vogliamo dare il nostro contributo e proporre alcune possibili soluzioni per garantire sicurezza e fruibilità dei ristoranti. 1. Scaglionare gli ingressi al ristorante in base alle fasce orarie, con offerte speciali low cost per gli orari meno felici. Ad esempio, offerta speciale cena ore 18:30 con sconto del 30%, cena ore 20 prezzo pieno, cena nella fascia prime time dalle 21 alle 23 con maggiorazione del 20%. 2. Apparecchiare i tavoli con tovaglie lunghe fino al pavimento per promuovere l'innocuo avvicinamento sociale tra avventori tramite piedino. 3. Dedicare l'utilizzo dei 4 metri quadrati di spazio a disposizione di ogni cliente per i suoi animali domestici, cani, gatti e quant'altro. 4. Per i tavoli non occupati, utilizzare barriere in plexiglass di 2 metri per esibizioni e spettacoli di intrattenimento, dai clown per i bambini alle ballerine di lap dance per gli adulti. 5. Mettere a disposizione dei commensali di cene di gruppo e tavolate dei sistemi igienizzati di cuffie e radiomicrofoni per agevolare la comunicazione a distanza. Ora vogliamo il vostro parere. Chiamate all'800 24 0024 e diteci quali limitazioni e condizioni siete disposti ad accettare per continuare a vivere la vostra convivialità nei ristoranti dopo la fase 2. 800 24 0024, mi sembra chiaro quello che è stato l'inizio del nostro contributo. Aspettiamo da voi ascoltatori delle integrazioni, cioè dirci in che maniera è possibile recuperare, secondo voi, naturalmente attraverso escamotage, la socialità, la convivialità quando si va al ristorante. Robert, provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Allora, io sono un amante della cucina orientale e posso dire che nella mia esperienza di frequenza di ristoranti giapponesi e cinesi ho sempre ammirato i salottini che loro con grande garbo hanno saputo creare per permettere alle persone sia un po' di privacy, ma altresì sia di potersi gustare il proprio pasto. E qui, cioè, il privé, lei vorrebbe fare un privé nei ristoranti, ma nella fascia, sì. No, ma giusto, nella fascia di prime time, quella dalle 21:30, sì. 22:30, sì. Quella in cui si paga di più, si ha accesso al privé, però naturalmente bisogna sempre tenere la distanza di sicurezza, quello non ci piove, perché sarebbe troppo complicato se no dire a ogni persona: questo cos'è, il tuo convivente, tuo marito, tua moglie, ci stai assieme, fammi vedere il certificato. No, allora guarda, mi permetto di fare una precisazione, nei due casi, quindi il primo caso io vengo con i miei amici, quindi presuppongo che siamo già stati assieme in macchina o comunque nel tragitto da dove e poi sono fatti vostri, a quel punto dice peggio benissimo, per voi se volete... benissimo, volte sì. Se io volessi andare a conoscere una persona, io penso che se scimmie eravamo e umani siamo diventati, è grazie anche a un senso di sviluppo sociale e di buon senso. E questo quindi, abbiamo se una capito. Persona, e quindi io dico, se io voglio conoscere una persona e andarci in questo salottino per fare, nonostante non siamo conviventi, io penso che faccia parte anche un po' del buon senso e dire sì, esco, sì, non però esco. La regola al momento è 2 metri di distanza. Puoi andare nel salottino, nel privé, farsi fare anche il violino zigano, se vuole, dietro il plexiglass, però sempre 2 metri di distanza. Per questo bisogna avere tanta fantasia per capire cosa si può fare in questa distanza. Noi abbiamo suggerito di fare delle tovaglie fino a terra, almeno sotto il tavolo si può fare quello che vuole. Uno parla con i piedi, il linguaggio dei piedi, non so che dire, non ci si può dar la mano, non ci si può guardare negli occhi perché c'è il vetro in mezzo, un po' si appannerà con i fumi della bistecca, si appanna. E quindi trovare una maniera alternativa. Orfeo, provincia di Vicenza. Buongiorno, salve signor Nicoletti, anzi dottor Nicoletti. Ma che dottore? Allora, il dottore è quello che ti cura. Sì, ma lei cura le anime, non è poco. Sì, ma quello si chiama prete, io cerco di dannarle le anime se mi è possibile, quando beh, mi capita qualcuno a disposizione. Io sarei uno. Vada al punto, vada al punto. Ma il punto è, plateatico libero in tutte le piazze d'Italia, il posto dove i bar, cioè se io vado in Nord Europa, una piazza è piena di tavolini, ombrelloni, sedie per servire quello che i clienti hanno bisogno di ricevere. Sì, solo per la bella stagione, io sono d'accordo, riapriamo chiudiamo le strade al traffico, facciamo grandi ristoranti all'aperto, come grandi feste sull'Aia, feste dell'Unità, feste paesane, come volete, anche se sono grandi ristoranti. Si starà distanziati, si sta all'aria. Può essere una soluzione, non è stato detto, perché non si chiudono le strade al traffico, i ristoranti possono mettere tavolini fuori e si fa tutto all'aperto, potrebbe essere una soluzione. Molti stanno scrivendomi, comincerebbe come in tanti paesi all'estero, di usare soltanto cibo all'asporto. Si mangia a casa, si prende al ristorante e si mangia a casa, ma è un'altra cosa, non tutti hanno case accoglienti, disponibili, in cui è bello ricevere persone, non è così, il ristorante è proprio un'uscita dal mondo quotidiano. Michele, provincia di Chieti. Ciao, buongiorno Nicoletti. Senta, io sinceramente sono d'accordissimo per il plexiglass nella separazione, però solo tra i tavoli, non all'interno dello stesso tavolo. Quello è la cosa spiacevole. Lei ha visto oggi molti negozi come sono attrezzati, c'hanno questa sorta di barierina come nelle banche di plexiglass. E lì si può parlare, sì, perché mangiandosi si sputazza abbastanza, si potrebbe almeno sputazzare, quindi ci vuole il plexiglass. Come ovviamo al fatto, mettiamo come nei parlatori delle carceri, un telefono che si può parlare, come quando Fantozzi va al night con i suoi compagni di ufficio. Sforzate la fantasia, non cambiamo, facciamo finta che le regole sono assolutamente indissolubili e indiscutibili. Cosa ci possiamo inventare? Vediamo Barbara da Piacenza, cosa si inventa? Buongiorno a tutti. Sì, e io mi è venuta questa idea, questo flash, guardando la televisione si vedono questi medici purtroppo in questi reparti che hanno queste visiere di plexiglass, che sono praticamente come dei caschi integrali, no? Sul viso. Sì, si cominciano a vedere anche per strada, qualcuno se le compra su Amazon, ho visto gente in bicicletta che le porta per strada. Sì, infatti. Come una maschera da saldatore in plexiglass, si mette davanti. Perfetto, mi era venuta anche questa immagine qui della maschera da saldatore. Ma come fa a mangiare con la maschera? Mi faccia capire, è una buona idea, perché ognuno c'ha la sua maschera, si mette la plexiglass, diciamo la signora se deve rifarsi il trucco o se suda un pochino si appanna. Penso, no? Pensavo di sì, uno ovviamente deve essere studiata bene, no? Deve essere, perché come fa a mettere il cucchiaio? Lei pensi di mangiare una minestra col cucchiaio sotto la visiera, se la versa addosso è una figura barbina. No, beh, certo, ma infatti io pensavo di studiare un'apertura in modo che si potesse a un certo punto distanziare di più, aprire, quindi con varie gradi di apertura, in modo da agevolare basculante, l'alza un pochino, si mette la cucchiaiata in bocca e la ritira giù. Le pensi se deve fare un brindisi? Beh certo, magari cioè, anche laterale, anche con delle solo ali laterali, delle armi laterali, in modo da poter avere questa vari gradi, diciamo, di apertura. Quindi, cioè, diciamo, lei gioca sullo scafandro piuttosto che diciamo sulle strutture fisse dentro il ristorante. Questa è un'idea. Noi entriamo già intutati, scafandrati, possiamo anche toccarci e stare vicini, mettiamo delle tute complete, comprese le visiere, dovremmo avere diritto ad avere un tavolo promiscuo, perché tanto ci possiamo toccheggiare sotto la tuta. Già questa può essere un passo avanti. Chi ha la tuta va nel privé con la tuta, fa quello che vuole. Cesare, provincia di Roma. Sì, buongiorno Nicoletti. Io volevo fare il caso di una comitiva di 4 persone che arrivano al ristorante già tamponati, come si può verificare dalla parte posteriore della vettura che è ancora ammaccata. Allora queste persone devono fai una battuta, scusate, non mi era sfuggito. Con cioè col certificato, chi ha il certificato, noi siamo immuni, tranquilli, non facciamo male a nessuno, possono andare. Bisognerebbe fare come c'è la saletta fumatori, è un po' discriminatorio, saletta per i sani al 100%. Lei pensi l'invidia di quelli che entrano nella saletta dei tamponati? Cara, ti invito a cena questa sera. Sì, tesoro, ma sei tamponato? Sì, cara, porto il tampone, allora vengo. Ma tu sei tamponata? Io no, e allora non puoi venire. Cioè io potrei uscire soltanto con tamponate se fossi nella condizione di tamponato. Diciamo, non rifiuto nessun tipo di suggerimento. Creare dei ristoranti molto privilegiati, però solo per tamponati. Il problema è poi chi trovi che ti fa il tampone. Ci fermiamo ancora un istante. Melog. Se devo portare i ruoli da casa, ragazzi, ma che vuoi che ti butto del punto? Il quadro rimettete la sedia. Assaggi, accomodatevi con noi. A Mercedes, dai una sedia. Voi siete della famiglia. Lo metto seduto qui insieme a questi amici miei. E pasta corta. E no. Sembra meglio. Ma il fuoco lo metto a sedere qui, E vadi pure a sede. Sa come si dice, chi non mangia in compagnia, il diavolo so porta via. Fettuccine con le regaglie di pollo, bucatini alla carbonara, e poi ci sono le specialità della casa. Magnate, queste non sono magri, sono piccioni. Cicetto, ste banane. E mi dispiace signora, sono finite. Questa è l'attovagliamento all'aperto popolano romano preso da Roma di Fellini. È un momento romantico in cui le persone però stanno molto promiscue, stanno all'aperto, ma sono uno sull'altro, bambini, famiglie, camerieri. Questo non può più esistere. Può esistere una forma intermedia. Noi stiamo questa mattina cercando di capire come può essere recuperata anche attraverso sistemi artificiosi la socialità dal punto di vista dell'avventore del ristorante. Giovanni da Pordenone, buongiorno. Buongiorno, allora io ho fatto 30 anni a New York, da ragazzo andavamo nel Bronx al drive-in a vedere The Thriller in Manila quando c'erano i pugili, allora propongo di avere un parcheggio di 500 macchine, ogni parcheggio numerato, con un'app ordini il cibo al ristorante che c'è sul posto e una ragazza con i pattini ti porta da mangiare, puoi vedere un film. Puoi vedere anche dei concerti senza uscire dalla macchina. No, questa è una buona idea. Avevamo un programma di fare delle trasmissioni perché ci sono degli amici che stanno organizzando, visto che i cinema rimarranno chiusi, per fare dei drive-in, che il drive-in è una cosa molto suggestiva e molto interessante. Allargare il concetto del drive-in, cioè andare ognuno con la sua macchina, mangiando in macchina. I maniaci delle macchine pulite impazziranno, la paura che gli cada... il sugo o qualche salsa sul sedile o sul cruscotto impazziranno, però è una forma. Certo, questo risolve soltanto il problema nelle zone periferiche, al centro di Roma e di Milano come si fa a fare il drive-in? Stiamo parlando di chiudere al traffico le strade per dare spazio ai tavolini e il drive-in forse non si concilia bene, però possa essere una forma mista, alternativa. Fulvio da Torino ha due idee, avanti. Bellissimo. Grazie dell'invito, io sono grazie a lei, autore... saranno grati tutti i ristoratori che ascoltano. Ah sì, sono appoggio senza mezzi di termini la proposta di per esempio la 2 e la 4, cioè un bagliore mi è venuto dal da questa le tovaglie lunghe fare per fare piedini. Piedino, beh, quella è sin troppo facile, chiaro. Sì. Però è un invito che apre un mondo intero. La seconda è quella di fare il menù in grande da una parte e dall'altra, e può essere come un invito agli artisti a sbizzarrirsi e a creare delle situazioni nuove. Quindi io non dico niente di nuovo in particolare. Ma c'ha ragione. L'idea di coinvolgere degli artisti, visto che i teatri sono chiusi, ma anche le gallerie d'arte, anche gli atelier, gli artisti in qualche maniera possono interagire negli spazi di sicurezza, negli spazi vuoti, rendendo più vivace l'ambiente. Sennò sarebbe un ambiente triste, da refettorio, da mensa delle suore. Invece è un po' meglio. Andrea da Parma, che idea hai avuto? Sì, buongiorno Nicoletti. Guardi, mi viene in mente una cosa un pochino strana, nel senso che potrebbe essere un'idea quella di recuperare vecchi monasteri, ce ne sono tantissimi. Non li mollano, ovviamente. Frati e monache non mollano manco, figuriamoci, manco un centimetro, questo lo scordi, è una vita che cerco spazi ad uso ecclesiastico per fare cose per ragazzi autistici, non mollano nulla, figuriamoci. Ma guardi, Nicoletti, mi viene in mente il carcere di Parma, che tra l'altro è abbandonato. Penso che le carceri abbandonate, questa è un'ottima idea. Ad esempio... Cioè, metteli qua, scusi, cosa cambia? In ogni cella mette una persona e gli porta a mangiare col carrello come carcerato. Esattamente, siccome io ho fatto servizio in questo caso, quindi lo conosco bene, ricordo bene le sezioni, per cui l'idea potrebbe essere quella di mettere magari una coppia e non una persona. Se poi vogliono la cella singola, possiamo fare anche quella, però quella di mettere una coppia per ogni cella. All'Asinara c'è un carcere bellissimo, abbandonato, stupendo, a Porto Azzurro c'è un bellissimo carcere, è vero. Ridare al carcere un'idea di convivialità, togliergli questa triste aura di aver tenuto persone in prigionia e giocare col fatto che bello, ci mettiamo dietro le sbarre, tu fai il carceriere, io il carcerato, cose, permette un'infinità di socializzazioni possibili. Stiamo scherzando, però questa è un'idea, usare spazi inutilizzati, pubblici, per restituirli all'uso sociale. Qui ci sono spazi molto ampi, grandi capannoni, carceri, monasteri abbandonati, refettori dei frati e via dicendo. Facciamoci dei posti in cui si mangia, però non risolve il problema di chi ha già un ristorante in una determinata via e deve riaprirlo. Paolo da Padova. Buongiorno, dottor Nicoletti. A me è venuto in mente, non so se ricordo anche lei, negli anni '80, quei locali, quelle paninoteche in cui nei tavoli c'erano i famosi telefoni. L'ippopotamo, dove andava Fantozzi, Filini e Calboni, esatto, con le entrenese. Era un modo per interagire con le persone, con le ragazze, soprattutto nel caso nostro, mio e dei miei amici. Ma io i telefoni, sì, quelli hanno telefoni vecchio stile, quelli ancora all'antica con il disco combinatore. Però ho detto, mettetevi delle cuffiette con dei microfoni, parlate col microfono e la cuffietta, non sarebbe male. Ecco, evitando che uno si debba chiamare per telefono. Io pensavo addirittura a telefoni farli bianchi, così mi tornava in mente quel film degli anni 70. Sì, però lei ha ragione, la sua idea, bisogna radicalizzare il ritorno all'arcaico, tanto vale ridare una aura vintage di telefoni bianchi, dice andiamo in un ristorante, ci telefoniamo col telefono bianco. Non è una cattiva idea, perché comunque rompe con la monotonia e con la condanna del luogo asettico per paura del virus. Ugo da Varese. Buongiorno, senta. Io volevo suggerire, che adesso fanno vedere nei film nuovi, anche polizieschi, su degli schermi compare la faccia di quell'altra persona, quindi sul plexiglass oppure un'altra struttura, è come se fosse uno Skype dal ristorante. Ognuno invece vede, mettere plexiglass, mettere due LED, no, due schermi. Sì, oppure che adesso proiettano sui film, fanno vedere gli Interpol. Un ologramma, uno dalla parte, uno dall'altra, che come il Obi-Wan Kenobi, che appare l'ologramma di quell'altro. A questo punto uno può stare anche a casa propria, si fa apparire l'ologramma. No, si va al ristorante, distanziati con gli ologrammi. Con gli ologrammi, uno va, mangia, non sputacchia su quell'altro, è tutto vivo, però almeno... E uno può anche dire le cose nelle orecchie, l'ologramma se lo mette vicino... È una cattiva idea, non è una cattiva idea. Schioccando le mani, compare sull'ologramma il cameriere, gli chiede porti l'acqua, qualsiasi sì, cosa. Purché anche il cibo non sia un ologramma, perché sennò alla fine quando uno paga il conto, almeno mangiare deve mangiare, almeno questo. Anna Maria, provincia di Cremona. Buongiorno, ecco la mia idea, la mia idea scout. Ho fatto capo scout per tantissimi anni. Beata lei. È stato bellissimo. e far scendere dal soffitto ad ogni coperto una tenda trasparente dove il commensale entra, si siede sul suo coperto e è protetto dalla testa ai piedi. Vabbè, sembra un obitorio, non sembra dopo un ristorante. Ma no, perché bisogna fare le tende belle colorate, belle arzigogolate, ognuno poi parla. Cioè io entro al ristorante, cala una cappa su di me di plexiglass e mi isola. Una tenda, lei pensi a non avere il plexiglass, ma avere quei tessuti soffici. Tra l'altro incrementiamo anche il lavoro delle sarpe, delle in due telerie. Sotto la stessa tenda ognuno ha il suo tendaggio? No, perché... ognuno ha la sua. Vabbè, come un villaggio di pelle rossa nei film degli anni 50, con tutte le tende, ognuno ha la sua. Beh, non è male. Mi dà un po' l'idea dei bozzoli, viene in mente Matrix, con gli umani allevati dentro i bozzoli. È un po' fantascientifico, però io apprezzo anche la sua idea. Giuseppe, provincia di Bari. Pronto? Giuseppe, sì, l'ascolto. Sì. In realtà io non ho un'idea, cioè penso che sarà un futuro bagno di sangue la ristorazione. Ho ascoltato chi mi ha preceduto con idee abbastanza bislacche, però la ristorazione non è solo convivialità, è anche il piacere di andare a mangiare, proprio per chi ama il cibo. E se il mangiare, cioè lo stare a mangiare in un locale, si è raffinato forse dalla scoperta del fuoco, passando per le taverne romane ad oggi, penso che si possa modificare poco di una cosa che pian piano si è affinata da sola, per cui io la vedo... L'evoluzione intanto ha degli stop, la nostra evoluzione sociale a questo punto necessariamente ha una deriva che non pensavamo. Alcune aree di socializzazione, quindi di apprendimento, perché socializzare vuol dire evolversi, capito? Vuol dire interscambiare con gli altri, sono interdette momentaneamente, non durerà per sempre. In questo momento, siccome siamo esseri pensanti, vediamo come invece che piangersi addosso, che tristezza, oddio, non so come faremo, inventiamoci qualcosa. Mi è piaciuta la signora che dice mettiamo le tende, il signore i telefoni bianchi, qualcosa di folle, di irrazionale, che però ci ridà l'idea dell'uscita dal quotidiano. Se no, al ristorante diventa la stessa minestra che ci mangiamo in ufficio, ci mangiamo a casa, nel distanziamento sociale e via dicendo. Andiamo perché c'è qualcosa di giocoso che dà quell'elemento aggiunto al piacere del cibo che faccia sì che noi andassimo al ristorante, non soltanto per mangiare. Francesco, provincia di Foggia. Buongiorno. Senta, io credo che la risposta sia già nei noi italiani, l'autocertificazione. Cioè, se io vado con la mia famiglia, dove si presume che tutti i giorni a pranzo sia vicino, non capisco perché se vado al ristorante mi devo distanziare. E quindi, se vado con la mia amante o se vado con qualcuno con cui già ci sta questo contatto, come lo possiamo chiamare, contagiato, mettiamo un termine così, quindi prenoto, chiamo e dico, senti, sono già una famiglia in cui sono promiscuo e voglio un posto a tavola promiscuo dove farò l'autocertificazione. Francesco, lei in linea di massima ha ragione, ma lei pensi l'onere da parte del ristoratore già deve avere una persona all'ingresso che prova la temperatura, una persona che igienizza ogni passaggio al gabinetto, deve anche prendersi la responsabilità di verificare se le persone sono al primo appuntamento, sono amanti consolidati, sono marito e moglie e via dicendo. È un po' complicato. Comunque ho apprezzato anche il suo sforzo, come quello di tutti gli ascoltatori. A domani.